c'era nucleare. Mi venivi incontro con un sorriso smagliante. Io la salutai, ma lei andò dritto. Non si partigiane, non stava nel sequestro. Non figurando una freccia nell'azzurro cielo. Però niente di erano cacche. Erano tanto, tanto incantate. Tutte le frecce delle ame individuate. Un urlo a tu parici era diventate. Cercano di togliere, di sciogliere, di eliminare.